Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Bari è una città meravigliosa, straordinaria, però il protocollo prevede questo. Siccome io non mangio panzerotti da qualche anno, perché sono cresciuto a panzerotti, mia nonna era pugliese, mia nonna è pugliese, quindi è sempre viva, 96 anni, straordinaria, quindi senza di niente De Caro mi ha preparato due panzerotti. Così sappiamo, care ascoltatrici, cari ascoltatori, a cosa è cresciuto Renzi. Quando qualcuno si chiede che piaccia o non piace a Renzi, ma che cosa si è mangiato, diciamo, per l'energia, per la capacità dialettica, per diciamo questa indomabilità che ha per certi versi, al di là, ripeto, che possa piacere o non Renzi, si sappia che ha mangiato i panzerotti. Questo l'ha detto in questo viaggio che sta facendo attraverso le città del sud. Ma noi ci occuperemo di molto altro, di cose molto serie stasera, perché parleremo per esempio del business. Questo è un rapporto di Europol e Interpol, quindi la polizia internazionale, Interpol e l'agenzia delle forze dell'ordine europea, Europol, questo rapporto congiunto sul business incredibile, miliardario, delle multinazionali del crimine che gestiscono i flussi dei migranti. Quindi quanto è più complesso questo quadro dei migranti, non soltanto, forse anche solo quello già moltissimo, persone che scappano da guerre, da crisi economiche, eccetera, ma tutto quello che poi c'è dietro. Poi ci occuperemo anche del botta e risposta tra il cardinale Bagnasco e il governo sulla giornata internazionale oggi contro l'omofobia, o meglio, Bagnasco è intervenuto sulle unioni civili, lo ha fatto questo attacco proprio oggi, forse non so se era proprio il giorno opportuno, comunque ne parleremo. E su questo, se volete anche i vostri pareri, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia come sempre al 349-238-6666, che è il numero per gli SMS e i WhatsApp. E poi anche sul la vicenda dell'Ilva, oggi è partito il processo, c'è stata la prima udienza, anche se è stata poi subito rinviata, ma notizia ancora più importante è che la Corte di Strasburgo dei diritti umani ha messo sotto accusa l'Italia perché non ha tutelato la salute dei suoi cittadini a Taranto. Tra l'altro c'è anche un altro stato d'accusa, diciamo, nei confronti dell'Italia da parte della Corte di Strasburgo, di cui vi parlerò poi adesso nel riassunto della giornata. Voi, se volete interagire qui Effetto Notte, lo sapete, come sempre ve l'ho detto, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666. E ora quindi la sintesi della giornata. Conti pubblici, Bruxelles dice sì all'Italia sulla flessibilità, ma rispetto dei target di bilancio, chiede. Renzi commenta, mi aspettavo di più, ma è un passo importante, merito di Padoan. Ilva, oggi prima udienza al processo, subito rinviato. Intanto la Corte dei diritti di Strasburgo accusa formalmente l'Italia di non aver protetto la salute dei cittadini. L'omicidio di Meredith, la Corte europea dei diritti umani, ancora accolto in via preliminare il ricorso contro l'Italia presentato da Amanda Knox per un processo iniquo e per maltrattamenti. Unioni civili, botta e risposta tra il governo e il cardinal Bagnasco nella giornata internazionale contro l'omofobia. Immigrazione, secondo il rapporto Interpol Europol, nel 2015 ha fruttato ai network criminali tra i 5 e i 6 miliardi di dollari e solo dalla Libia sarebbero 800.000 migranti pronti a salpare verso l'Europa. Elezioni comunali, respinto a Milano il ricorso del Movimento 5 Stelle sulla candidabilità di Sala. Un nuovo femminicidio a poche ore da quello di Firenze. Nel milanese un uomo ha coltellato a morte la fidanzata 25enne e poi ha tentato il suicidio, è stato arrestato. Brasile, la Corte Suprema valuterà l'impeachment anche nei confronti di Temer, che ha assunto le funzioni di capo dello Stato ad interim dopo la sospensione della presidente Dilma Rousseff. E per lo sport, per Euro 2016, per gli europei di calcio sarà utilizzato uno scudo antidroni sopra gli stadi. E per il ciclismo, la 10ª tappa del Giro d'Italia, si ritira Landa, la tappa va a Ciccone, Jungels nuova maglia rosa. Partiamo quindi dall'economia, in particolare dal sì dell'Unione Europea all'Italia sulla flessibilità. Domani però dovrebbe arrivare la risposta definitiva, salvo sorprese e rinvii dell'ultima ora, e anche il giudizio della Commissione Europea sul documento di economia e finanza. Massima flessibilità sui conti nel 2016, di questo appunto si parla, ma rispetto rigoroso dei target di bilancio il prossimo anno, così dice Bruxelles. Sentiamo le richieste dell'Europa e le reazioni da Roma. concessione di tutta la flessibilità richiesta nel 2016 in cambio del risanamento del gap evidenziato dalla Commissione europea nel 2017. Bruxelles si prepara a garantire una flessibilità mai offerta prima per ammissione della stessa Commissione nella lettera a doppia firma Moscovici-Dombrovskis inviata al Ministero dell'Economia. Roma otterrà dunque mezzo punto per le riforme strutturali, un quarto di punto per gli investimenti e un decimo complessivo assommando spese per migranti e sicurezza, un bonus da ben 14 miliardi. Come previsto, l'esecutivo comunitario ha scelto di non andare allo scontro con l'Italia nonostante i venti di guerra che hanno segnato l'avvio di quest'anno. In cambio però chiede che Roma si impegni a mantenere il rapporto deficit-PIL nel 2017 all'1,8%, correggendo di un decimale la rotta, in soldoni circa 3 miliardi, risultato di uno scostamento previsto pari a 2 decimali rispetto all'obiettivo. Anche per questo la Commissione chiede il mantenimento della clausola di salvaguardia dell'IVA nel caso l'Italia non riesca a centrare gli obiettivi del patto il prossimo anno. Bruxelles potrebbe invece usare il pugno duro contro Spagna e Portogallo, colpevoli di aver sforato ancora una volta il tetto del 3% nel rapporto deficit-PIL. Madrid e Lisbona rischiano di diventare i primi paesi sanzionati per non aver rispettato il patto. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Palazzo Chigi non nasconde la sua soddisfazione per un via libera che apre margini di manovra importanti per la politica economica del governo. Abbiamo ottenuto un accordo significativo, dice allora il presidente del Consiglio Renzi, e ancora meno di quello che avrei voluto, spiega, ma è un fatto importante, un riconoscimento all'intero paese. Non è la soluzione di tutti i mali, dice ancora il premier, ma afferma un principio sulla flessibilità. L'Europa c'è. Che alla fine in questi 2 anni vale diversi soldi per l'Italia ed è uno degli argomenti per i quali possiamo permetterci di dare il via libera a alcuni investimenti che altrimenti sarebbero stati fermi. È il ministro dell'economia Padoan ad entrare quindi nello specifico delle raccomandazioni che arrivano da Bruxelles. Padoan ribadisce l'impegno di rilanciare crescita ed occupazione senza discostarsi dalle regole di bilancio per il 2017. Il trionfalismo di Renzi è surreale, ribattono però le opposizioni. Critico Brunetta, Forza Italia, che parla di vittoria di Pirro. Ad ottobre spiega i nodi verranno al pettine, gli italiani dovranno subire una maxi manovra da 40-50 miliardi di euro. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Arrivano intanto buone notizie sul fronte economico nel 2016. Secondo i dati Istat, il PIL, il prodotto interno lordo, la ricchezza dell'Italia salirà dell'1,1% in termini reali. Più consumi e investimenti, meno disoccupazione. L'economia italiana migliorerà in questo 2016, anche se un po' meno rispetto a quanto previsto dal governo ad aprile nel DEF. 1,1% è la stima sul PIL da parte dell'Istat, che si allinea così a quanto pronosticato dalla Commissione europea. Prosegue dunque, seppur con intensità moderata, la fase espansiva della nostra economia, avviatasi agli inizi dell'anno precedente, scrive l'Istituto, proprio nelle ore in cui da Bruxelles arriva il via libera sulla flessibilità. Tre fattori a supporto di questa crescita: il basso livello dei prezzi dell'energia, la riduzione dei tassi di interesse e il graduale miglioramento della fiducia tra gli operatori. Una ripresa che comincia ad accelerare grazie soprattutto ai consumi interni. La spesa delle famiglie infatti quest'anno crescerà dell'1,4, gli investimenti del 2,7. Effetti positivi dovrebbero riflettersi anche sull'occupazione. Il tasso di disoccupazione quest'anno dovrebbe scendere all'11,3 dall'11,9 del 2015, mentre l'occupazione dovrebbe aumentare di quasi un punto percentuale. Alessandra Schepisi, Radio 24, e Sole 24 Ore, Roma. E arriviamo alle notizie che riguardano l'Ilva. Oggi c'è stata la prima udienza del processo ambiente svenduto che riguarda l'Ilva di Taranto, che però è stato subito aggiornato al 14 giugno per un difetto di notifica. Intanto la Corte dei diritti di Strasburgo accusa formalmente l'Italia di non aver protetto la salute dei cittadini, e ne parleremo di questo in modo più approfondito qui nel corso di Effetto Notte. Sempre per quanto riguarda la Corte dei diritti umani di Strasburgo, l'Italia è sotto accusa anche per un'altra vicenda. La Corte ha infatti accolto in via preliminare il ricorso contro l'Italia presentato da Amanda Knox, ricordate, la ragazza prosciolta in Cassazione dall'accusa di aver partecipato all'uccisione di Meredith Kercher a Perugia. La giovane sostiene di aver subito un processo iniquo e di essere stata maltrattata durante l'interrogatorio, e quindi la Corte di Strasburgo ha ritenuto valido il dossier presentato dai legali della Knox e ha comunicato il ricorso al governo italiano affinché possa difendersi. Stati Uniti, il Senato americano ha approvato oggi all'unanimità la legge che consente ai sopravvissuti e ai parenti delle vittime dell'11 settembre di fare causa e chiedere risarcimenti a chi al governo dell'Arabia Saudita, che ha sempre negato ogni coinvolgimento negli attentati. La legge diventerà esecutiva se verrà approvata anche dalla Camera e firmata dal presidente Barack Obama, che però ha già detto di essere contrario. E siamo così alle unioni civili. Nella giornata internazionale contro l'omofobia è arrivato l'affondo della CEI con le parole del cardinal Bagnasco. La recente approvazione della legge sulle unioni civili sancisce di fatto una equiparazione al matrimonio e alla famiglia. Un no secco senza tentennamenti, quello del cardinale Bagnasco alla fine della sua prolusione all'Assemblea Generale della CEI, con un affondo preciso sui prossimi passi che preoccupano ancora di più la Chiesa. In attesa del colpo finale, compresa anche la pratica dell'utero in affitto, che sfrutta il corpo femminile profittando di condizioni di povertà. Parole che riaccendono il dibattito politico, trovando la piena solidarietà in Quagliariello e Gasparri e nette distanze, pur nel rispetto delle diverse opinioni, nei Dem, che insistono sul coraggio della scelta fatta. Nessuna legittimazione dell'utero in affitto, taglia corto il ministro cattolico Alfano. L'interpretazione di Bagnasco, ha detto Alfano, non corrisponde al dettato della legge approvata. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi ci torniamo su questo tema, vedo già alcuni vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Intanto dalla Liguria arriva la notizia di un'inchiesta che vede coinvolto il cardinal Calcagno, ex vescovo di Savona. L'accusa contestata dalla Procura di Savona è malversazione. Tra i quattro indagati figura il cardinale Domenico Calcagno, fino al 2007 vescovo della città Ligure, oggi al vertice dell'amministrazione del patrimonio della sede apostolica e numero uno dell'Istituto di Sostentamento del Clero della diocesi savonese. Al centro dell'inchiesta una serie di operazioni immobiliari che proprio questo istituto avrebbe condotto nel corso degli anni, di fatto trasformando in termini affaristici la sua funzione originaria. Tra gli investimenti effettuati, con risultati che si sono poi rivelati fallimentari, il progetto per trasformare una vecchia colonia di celle ligure in un hotel di lusso e l'edificazione di appartamenti e box al posto di un ex asilo di Albisola. Operazioni appunto in perdita, con il bilancio dell'istituto che già nel 2009 segnava un passivo molto pesante, milioni e milioni. Oltre al cardinale Giacomo Calcagno sono indagati l'ex presidente dell'istituto Don Pietro Tartarotti, il suo vice Gian Michele Baldi e il figlio di quest'ultimo Gianmarco. Stamane il cardinale ha detto di aver preso dell'inchiesta dai giornali e aggiunto: sono sereno per il lavoro svolto, attendo fiducioso l'evolversi della vicenda. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. E questo rapporto Interpol-Europol ci fa parlare di immigrazione, perché secondo questa ricerca, questo rapporto, nel 2015 il traffico di migranti ha fruttato ai network criminali tra i 5 e i 6 miliardi di dollari, e si apprende sempre da questo rapporto che solo dalla Libia sarebbero in arrivo, pronti a partire, 800.000 migranti a salpare verso l'Europa. Approfondiremo poi questo argomento, come vi dicevo all'inizio. Siamo alla politica. Giuseppe Sala è candidabile a sindaco di Milano perché è stato respinto il ricorso del Movimento 5 Stelle. Il ricorso era stato presentato dopo che ricostruzioni di stampa avevano ipotizzato che Sala non potesse presentarsi come candidato perché le sue dimissioni da commissario Expo non sarebbero state effettive per una presunta incompatibilità con la sua nomina in Cassa Depositi e Prestiti. E poi queste mozioni che sono state approvate oggi: l'Italia deve proseguire nell'affermazione come imperativo politico urgente dell'irrinunciabile diritto fondamentale alla libertà e alla dignità femminile contro ogni violenza, sia nel privato della violenza domestica sia in ogni altro luogo, in Italia come in ogni altra parte del mondo. Lo prevedono le mozioni in tal senso approvate oggi dall'Aula della Camera. Poi bisogna vedere quanto queste siano concretizzabili rispetto poi alla cronaca di cui vi parlerò. Estero, Brasile, la Corte Suprema brasiliana si pronuncerà sulla richiesta di apertura di un procedimento di impeachment di Stato in messa d'accusa nei confronti di Michel Temer, che ha assunto le funzioni di capo dello Stato ad interim dopo che la presidente Dilma Rousseff è stata a sua volta sospesa per impeachment. Quindi adesso viene chiesto anche nei confronti del suo vice che ha preso il suo posto. E a Vienna intanto si discute invece del futuro della Siria. Una immediata cessazione delle ostilità in Siria, a chiederla sono Stati Uniti e Russia, che da Vienna provano a rilanciare i colloqui di pace trasformando in un vero e proprio cessate il fuoco la fragile tregua concordata fra il regime di Assad e le varie fazioni in lotta. Chi la violerà sarà escluso dai negoziati, hanno avvertito il segretario di Stato americano Kerry e il ministro degli esteri russo Lavrov. The delivery of humanitarian assistance must begin Anche gli aiuti umanitari dovranno raggiungere le città assediate, ha sottolineato Kerry. La Russia sostiene la lotta al terrore e non il regime di Damasco, che però al momento è l'unica forza in grado di contrastare sul campo i terroristi, ha precisato Lavrov, aggiungendo che Assad segue i consigli di Mosca e sa che dovrà mettere in pratica quanto previsto dalle risoluzioni dell'ONU. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di nuovo in Italia con la cronaca, con un altro ennesimo femminicidio dopo quello di ieri di Firenze. Un uomo ha coltellato a morte la fidanzata e poi ha tentato il suicidio nel milanese. È accaduto nell'abitazione della coppia a Magnago, in provincia di Milano, dove l'uomo, che ha 33 anni, ha colpito con diversi fendenti la compagna di 25 anni che lo voleva lasciare. Poi ha tentato di togliersi la vita senza riuscirci. Ora è all'ospedale di Legnano, piantonato dai carabinieri. E per quanto riguarda il femminicidio di ieri di Firenze, si apprende che l'assassino suicida, ex compagno della vittima, la vittima Michela Noli, prima di ucciderla aveva mandato degli sms a un amico, anche chiedendogli dove l'ha coltello per farla morire sul colpo. E ora una sentenza della Cassazione: fare il saluto romano o saluto fascista, che dir si voglia, continua a essere un reato in base alla legge Mancino, nonostante ci sia qualcuno, dice la sentenza, che lo ritiene un atto neutro, specie se non accompagnato da atti di violenza, perché si richiama all'ideologia fascista e ai valori politici di discriminazione razziale e di intolleranza. Lo sottolinea la Cassazione, confermando la colpevolezza di 7 ultra friulani, prosciolti tuttavia per prescrizione. Allo stadio di Udine, dove il 10 settembre 2008 si svolgeva la partita Italia contro la Georgia, già dagli spalti avevano fatto il saluto fascista per tutta la durata dell'inno nazionale italiano. Per chiudere lo sport, il calcio: il capo della sicurezza per i prossimi europei di calcio in Francia, Ziad Koury, ha reso noto che verrà utilizzata per gli europei un'innovativa tecnologia antidroni per intercettare apparecchi che violino il divieto di sorvolo sopra gli stadi. Il sistema interferirà con i droni prendendone il controllo, ha spiegato Koury, sottolineando che si tratta di una misura dissuasiva mai utilizzata in un evento sportivo. Per il ciclismo, Bob Jungels al Giro d'Italia, al lussemburghese, la nuova maglia rosa del Giro d'Italia dopo la decima tappa da Campi Bisenzio a Sestola, l'ha strappata al compagno di squadra, l'italiano Gianluca Brambilla. E con questa maglia rosa io direi ci salutiamo brevissimamente per aggiornare chi viaggia. Intanto volevo dare uno sguardo ai vostri messaggi. Se volete, sulla pagina Facebook ho postato anche quello che ha scritto il ministro delle politiche agricole Martina oggi nella giornata internazionale contro l'omofobia, e anche alcuni esponenti del governo hanno anche risposto agli attacchi oggi del cardinal Bagnasco sulle unioni civili. Voi potete commentare l'uno o l'altro. Martina scrive: solo riconoscendo il diritto di ogni persona a vivere con piena dignità la propria identità di genere, il proprio orientamento sessuale e quello affettivo, possiamo definire la nostra società come una società davvero democratica, inclusiva e rispettosa delle diversità. Con la legge sulle unioni civili, scrive Martina, l'Italia ha compiuto finalmente un passo in avanti fondamentale, colmando un vuoto inaccettabile. Ma come purtroppo dimostrano anche recenti fatti di cronaca, dice, la strada che abbiamo davanti sembra ancora lunga. Cristiano commenta: gli episodi non cancellano né diminuiscono la forza di un principio, che è quello dell'uguaglianza. Una voce contraria può anche cantare addosso al coro, ma a vuoto, senza capacità e senza presa. 349-238-6666. Se volete scrivere i vostri commenti attraverso SMS o WhatsApp, oppure c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, lì per voi giorno e notte. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano sempre con voi. Sto leggendo i vostri messaggi, deve esserci un blocco, forse gli sms, adesso vediamo se si riescono a sbloccare. Intanto leggo un WhatsApp di Mauro al 349-238-6666, se no fate prima scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Dice: mi piacerebbe sapere se anche in altri paesi cattolici che hanno adottato le unioni civili la Chiesa ha operato le stesse invadenti interferenze. Tra poco cominceremo a entrare nel cuore degli argomenti, però come sempre, se non avete acceso puntualmente Effetto Notte, la radio alle 21, vi ricordo le notizie principali. L'Unione Europea dice sì alla flessibilità per 14 miliardi per quanto riguarda i conti italiani, ma dice serve uno sforzo per il 2017. Renzi dice va bene, basta però austerità, e il ministro Padoan dice eviteremo deviazioni. E poi Bagnasco, il cardinal Bagnasco, l'Assemblea dei Vescovi oggi attacca le unioni civili, il PD dice non sono contro la famiglia, questa legge delle unioni civili. E poi Bagnasco insiste, l'utero in affitto è il colpo finale, mentre il ministro dell'Interno Alfano dice nella legge non c'è, non è previsto. Strasburgo accusa l'Italia per l'Ilva, non tutelò la salute. Intanto oggi c'è stata la prima udienza al processo a Taranto. Referendum Renzi, dice al PD, mettiamo da parte le divisioni in vista del referendum di ottobre. Tra noi rispetteremo il volere del popolo. Intanto firma dei patti per il mezzogiorno a Bari e all'Aquila. Migranti 800.000 pronti in Libia a sbarcare in Europa. E poi, secondo questo rapporto di cui parleremo tra pochissimo, tra rapporto di Europol e Interpol, è un affare da 6 miliardi di dollari. Proteste in Francia. E il dito è partito, diciamo, della tecnica. C'erano altri titoli, ma questi sono i più importanti. Adesso allora passiamo subito al tema, quello dei migranti. Vi dicevo, l'incredibile business legato al traffico dei migranti. Secondo un rapporto di Europol, che è l'Agenzia Europea delle Forze dell'Ordine, e Interpol, che è l'organizzazione internazionale della polizia criminale, il traffico di migranti verso l'Europa nel 2015, quindi l'anno scorso, è fruttato ai network criminali fra i 5 e i 6 miliardi di dollari. Il 90% degli spostamenti dei migranti è gestito da quella che viene definita in questo rapporto una multinazionale del crimine, il 90%, quindi quasi il 100%, che coinvolge questa multinazionale del crimine persone originarie di oltre 100 paesi, con una struttura formata da una serie di capi che coordinano le attività lungo le rotte migratorie, di organizzatori che gestiscono le attività a livello locale attraverso contatti personali, facilitatori di basso livello, e di solito questi sospetti trafficanti hanno alle spalle una vita criminale, comunque partecipano ad altre attività criminose, e il rischio di sfruttamento lavorativo e sessuale per i migranti viene legato al denaro che poi loro devono a questi trafficanti. E seppure non si possa parlare di un vincolo stretto, chiaro, tra traffico di migranti e terrorismo, in questo rapporto viene segnalato un rischio crescente che i cosiddetti foreign fighters entrino in Europa tra i profughi. In generale, poi, questo rapporto, come dicevo anche dai titoli, dice che si attende un aumento del numero di migranti che cercheranno di raggiungere l'Europa, e nella sola Libia ce ne sono 800.000 in attesa di partire. Ne voglio parlare con Mario Giordano, direttore del TG4. Buonasera Mario. Buonasera a tutti. Il cui ultimo libro, neanche a farlo apposta, si intitola Profugopoli, quelli che si riempiono le tasche con il business dei migranti e degli immigrati. Anche se Mario, in realtà poi il tuo libro è estremamente articolato, documentato, eccetera, ma è più su, posso dire, sui i furbacchioni, gli opportunisti, quelli, gli approfittatori, per quanto riguarda magari il nostro paese in Italia, no? Da quelli che affittano le ville a quelli che trasformano, non so, gli alberghi, insomma, che approfittano di quello, del fatto che si possa lucrare, ecco, sulla presenza di immigrati. Qui si parla di multinazionali del crimine, di veri e propri criminali pericolosi. Sempre di business si tratta, ma certo, sono, diciamo, due lati del business, nel senso che il rapporto dell'Europol di oggi mette in evidenza quella che, appunto, come giustamente dicevi tu, è quella che viene definita la multinazionale del crimine, che è formata appunto per lo più da stranieri che operano per portare e per guadagnare sulle tratte, sulla tratta degli uomini. L'abbiamo visto anche recentemente, per esempio, dall'inchiesta di Bari, dove c'era anche ipotizzata quella connessione con il terrorismo di cui parlavi tu, e dall'intercettazione dell'inchiesta della Procura di Bari il commercio di uomini viene fuori in modo chiarissimo. Molto spesso ha delle basi in Italia, molto spesso anche nei centri di accoglienza italiani che fanno da punto di riferimento. Questo l'abbiamo visto sia nel CARA di Mineo sia appunto nel CARA di Bari. Ci sono dei punti di riferimento di questa tratta che però, diciamo, ha i suoi capi nella multinazionali del crimine, quindi negli stranieri che gestiscono questo crimine. Poi c'è la cosa su cui ho focalizzato l'attenzione io, che invece sono gli italiani che si arricchiscono e si riempiono le tasche con il business, e alcune volte in modo illecito. In questi casi le procure stanno sollevando tutta una serie di cose, qui la mafia capitale è stata semplicemente la prima. Ricordiamo, gli immigrati rendono più della droga, ma ce ne sono tante che stanno scoppiando adesso e tante che scoppieranno nei prossimi mesi, che io in qualche modo anticipo nel mio libro. E ci sono invece anche tanti, diciamo, uno sfruttamento, diciamo così, nei margini della legalità, però diciamo in modo, come dicevi tu, dei furbacchioni, che però sono qualcosa più che furbacchioni, sono delle persone che non sanno gestire poi l'immigrazione, quindi si riempiono le tasche perché il flusso di denari e l'emergenza continua spinge molte persone a buttarsi su quello che viene visto come un business. Ma poi cosa succede? Che molto spesso gli stranieri sono trattati male, sono buttati in situazioni in cui non vengono gestiti bene, non si favorisce in nessun modo l'integrazione, ma anzi si favoriscono poi le reazioni contrarie delle persone. E tutto questo perché? Perché ci sono delle persone appunto che moltiplicano i fatturati delle loro aziende anche non avendone nessuna qualifica. Io questo racconto facendo nomi e cognomi e molti esempi nel mio libro. Infatti tu hai approfondito la questione, hai fatto questa inchiesta molto articolata, e come si può evitare, cioè con un fenomeno effettivamente così complesso, no? Inevitabile poi che tanti ne approfittino, e abbiamo detto a livello internazionale, no? Anche questa multinazionale del crimine, difficile. Inevitabile non è inevitabile, perché voglio dire, a parte poi che ci sono, naturalmente occorre una gestione secondo me migliore dei flussi dell'immigrazione, cioè bisogna limitare gli accessi e dare risposte più rapide ai richiedenti asilo. Non è possibile che noi abbiamo richiedenti asilo per dargli una risposta ci vogliono 2 anni da parte delle commissioni, dopo si può fare ricorso e poi dopo l'appello e poi dopo la Cassazione, quindi sono i tempi molto lunghi. Ovviamente aumentare il numero di persone fa sì che troppe persone aumentano la situazione, perché tante persone in questo caso ci guadagnano su, però non è un modo civile di gestire l'integrazione. Cioè, se uno è profugo ha diritto di essere accolto, bisogna dare tutti gli strumenti per inserirsi rapidamente, e se non lo è non dobbiamo accoglierlo, e quindi deve essere riaccompagnato al suo paese o espulso dal nostro paese se non ha diritto di stare qua, quindi bisogna limitare. Poi però c'è un secondo livello che dopo bisogna gestire bene. Secondo me si possono fare delle cose. Vi faccio un esempio. Perché le cooperative coinvolte in mafia capitale continuano a vincere appalti in tutta Italia? Non sarebbe possibile, per esempio, mettere un'interdittiva se uno ha un incidente con l'auto, un incidente grave, e mafia capitale è un incidente grave, un'inchiesta è un incidente grave, e non gli viene sospesa la patente? Perché invece noi continuiamo a vedere anche adesso, anche in questi momenti, in tutte le prefetture d'Italia che ci sono le stesse cooperative, anche quelle che hanno commesso degli errori gravi, che continuano a vincere gli stessi appalti? Perché succede questo? Perché per esempio i prefetti affidano gli immigrati a società che non ne hanno, a società di idraulica, a associazioni folcloristiche che si occupano di balli tradizionali come accade in Sicilia, appunto idraulici, istituti odontotecnici, persone che non hanno nessuna qualifica, perché c'è l'emergenza e quindi chiunque può avere diritto di partecipare a questi bandi? Perché si mettono le persone negli alberghi, che non avviene in nessun altro paese, d'Europa? Perché non è giusto, gli alberghi devono fare industria turistica, devono sviluppare il turismo, non si devono trasformare in centri d'accoglienza. Quindi ci sono tutta una serie di misure che, in attesa di risolvere, o mentre si cerca di risolvere il problema dell'afflusso, che è il grande problema, si possono però fare una serie di misure per gestire. Io mi chiedo, e si legge il mio libro, Profugopoli, lo ricordo, Profugopoli. Sì, perché ci sono degli esempi, ma c'è per esempio a Giuliano, in cui c'è un idraulico che fattura 44.000 euro, si mette insieme con una Onlus, che si chiamano Family e New Family, le due cose, e fanno un'associazione temporanea di imprese. La Procura di Napoli gli dà 460 immigrati, vengono buttati in un hotel di Francia, gestiti malissimo, per cui interviene la polizia, insomma le solite cose che poi vediamo alla televisione, che sollevazione popolare eccetera, disastro, nessun tipo di integrazione. Il fatturato di questo idraulico, che era di 44.000 euro, diventa di 5.568.000 euro, allora aumenta di 126 volte. Allora è possibile gestire meglio? È possibile non affidare a chi ha gestito non bene l'immigrazione, fare in modo che non li gestisca più? Invece perché in Italia le società, come dicevo prima, che vengono coinvolte, che vengono beccate, che vengono denunciate, continuano invece continuamente a gestire gli immigrati? Quindi si potrebbe fare qualcosa, sì, si può fare qualcosa. In Italia si potrebbe già fare qualcosa, dice, al di là del livello internazionale più complesso di cui si parlava in questo rapporto. Grazie Mario Giordano, ricordo il suo libro Profugopoli. Ciao Mario, grazie. Buona serata, buon lavoro. Adesso invece i vostri messaggi, stasera è successo qualcosa, qualcuno ha boicottato gli sms che dovevano arrivare, stanno arrivando invece sulla pagina Facebook di Effetto Notte, li scrivete se volete interagire qui con Effetto Notte, oppure su WhatsApp qualcosa arriva, anche lì però mi sembra che sia un po' bloccato il numero, perché mi sembra che ci sia il messaggio ancora di Mauro, mentre sulla pagina Facebook di Effetto Notte Ilaria dice, per quanto riguarda il superamento degli stereotipi e dei pregiudizi sull'omosessualità, dice, la strada è lunga e accidentata, ma arriveremo alla fine del cammino, perché garantire diritti a tutti forse è l'unica dignità rimasta alla nostra civiltà morente. A tra poco. Cuore e Denari presenta un appuntamento speciale dedicato alla salute e al benessere del cuore. Ogni mese un tema abbinato ad un colore. Quello di maggio è il rosso, come la passione, come l'amore. E a proposito d'amore, le pillole dell'amore che accendono la passione possono fare male al cuore? Bella domanda. Tenetevi pronti allora, perché il 30 maggio ne saprete di tutti i colori. Vi aspettiamo con i colori del cuore per parlare di cuore e dintorni. Cuore e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Dal lunedì al venerdì alle 10.30 su Radio 24. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi, non con il giusto funzionamento del computer che da un po' è bloccato, quindi anche i vostri messaggi, voi provate a mandarli come sempre gli sms e i whatsapp al 349-238-6666, vediamo se si sblocca qualcosa. Mi sembra che sia arrivato un whatsapp adesso, boom, spuntato così, propulsivo, cercava di uscire da un po', ma altrimenti scrivete sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Tra poco continueremo con gli argomenti, dopo averne trattati ampiamente nella prima parte con il riassunto della giornata. Poi abbiamo parlato di questo business sui migranti, a proposito della multinazionale del crimine di cui parla questo rapporto in collaborazione tra Europol e Interpol. Adesso invece parleremo, nell'ambito della giornata internazionale dell'omofobia, degli interventi di oggi degli esponenti del governo e anche dell'attacco del presidente dei Vescovi Italiani Bagnasco sulla legge delle unioni civili. Vedo ancora i messaggi, per esempio sulla pagina Facebook Luciano scrive: bisogna fare le leggi senza farsi condizionare dalla Chiesa. Adesso vi ricordo però, prima di prendere in mano il prossimo tema, quali sono i titoli principali. Conti pubblici, Bruxelles dice sì all'Italia sulla flessibilità, ma rispetto dei target di bilancio, chiede. Renzi commenta: mi aspettavo di più, ma è un passo importante, merito di Padoan. Ilva, oggi prima udienza del processo, subito rinviato. Intanto la Corte dei diritti di Strasburgo accusa formalmente l'Italia di non aver protetto la salute dei cittadini. L'omicidio di Meredith, ancora la Corte europea dei diritti umani ha accolto in via preliminare il ricorso contro l'Italia presentato da Amanda Knox per il processo iniquo e per maltrattamenti. Unioni civili, botta e risposta tra governo e Cardinal Bagnasco nella giornata internazionale contro l'omofobia. Immigrazione, ne abbiamo appena parlato, secondo il rapporto Interpol-Europol nel 2015 ha fruttato i network criminali tra i 5 e i 6 miliardi di dollari. Elezioni comunali, respinto a Milano il ricorso del Movimento 5 Stelle sulla candidabilità di Sala. Un nuovo femminicidio a poche ore da quello di Firenze, nel milanese un uomo ha coltellato a morte la fidanzata di 25 anni e poi ha tentato il suicidio, è stato arrestato. Sport, per Euro 2016 sarà utilizzato uno scudo antidroni sopra gli stadi. Quindi dicevamo, oggi giornata internazionale, oggi 17 maggio, giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia. Sul tema è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha usato delle parole chiare per dire che l'intolleranza va contrastata. Ha detto: è inaccettabile che l'orientamento sessuale delle persone costituisca il pretesto per offese e aggressioni. E poi ha aggiunto: le discriminazioni, le violenze morali e fisiche non sono solo una grave ferita ai singoli, ma offendono la libertà di tutti, insidiano la coesione sociale, limitano la crescita civile. Dice: dobbiamo parlarne ai giovani per contrastare il bullismo. Ma questa ricorrenza della giornata internazionale contro l'omofobia ha rinfocolato le polemiche, perché l'Italia non ha ancora una legge che preveda sanzioni e preveda il reato di omofobia, in quanto questo disegno di legge approvato dalla Camera nel 2013, quindi stiamo parlando di 3 anni fa, è ancora lì parcheggiato al Senato. Un ragazzo su 3, secondo una recente indagine di scuola.net, racconta di aver assistito assistito a casi di omofobia tra le mura scolastiche e nella maggior parte dei casi le vittime sono state abbandonate a se stesse, nel senso che nessuno è intervenuto. Una cosa buona che ha fatto il MIUR, il Ministero per l'Istruzione e l'Università, per sensibilizzare gli ambienti scolastici, anche quest'anno ha inviato una circolare ai dirigenti scolastici per invitarli a svolgere attività di contrasto al bullismo omofobico. Allora, vi farei sentire, a proposito delle aggressioni subite dai più giovani, quella subita da un 15 anni fa, da Nicolò, un 28enne oggi, del Circolo di Cultura Omosessuale Maromieli di Roma, che ha raccontato la sua esperienza al microfono di Alessandra Iannuzzi. Io già da ragazzino ho avuto, insomma, delle esperienze un po' spiacevoli, in particolare alle scuole medie, fuori scuola noi avevamo sempre un ritrovo con gli amici in una panchina e lì niente, sono stato circondato da un ragazzo, da un bulletto, è venuto col motorino e insomma mi ha preso a spintoni, poi mi ha cominciato a tirare dei caschi addosso, insomma in testa, poi sono svenuto e non ricordo più nient'altro. Questa è stata un'esperienza, devo dire, particolarmente, insomma, mi ha segnato parecchio, poi ecco, perché poi per un periodo non ho più frequentato quel quartiere, almeno per 6 mesi ho avuto paura proprio, insomma, a frequentare quella via. E poi sì, insomma, in parecchie circostanze, purtroppo, insomma, per strada, in giro, mi ricordo un'altra volta in un locale, io ero con un amico, insomma, ci hanno invitato ad uscire dal locale perché ci stavamo baciando, e quindi insomma di situazioni spiacevoli ne ho subite parecchie. Devo dire che insomma negli ultimi anni le cose, insomma, mi sembrano un pochino migliorate, forse anche alla luce del fatto che se ne parla di più, che si discute di più di questa cosa. E a sollecitare una la legge appunto contro l'omofobia sono stati oggi anche il presidente del Senato Grasso, la presidente della Camera Boldrini. Come sapete però, quindi, non è andata in porto per il momento, da 3 anni a questa parte, la legge contro l'omofobia, però come sapete nei giorni scorsi è passata quella sulle unioni civili, successo rivendicato dal presidente del Consiglio Renzi, il quale aveva detto poi, per rispondere alle critiche di alcuni esponenti della Chiesa Cattolica, aveva detto: io ho giurato sulla Costituzione, non sul Vangelo. Torna però ad attaccare questa legge sulle unioni civili il presidente dei Vescovi, il cardinale Bagnasco, lo fa all'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani in Vaticano, di cui abbiamo parlato ieri perché c'è stata la prolusione del Papa, di Papa Francesco, il quale però ieri, com'è nella sua linea, potremmo dire linea comportamentale, linea editoriale, linea politica, ha evitato di parlare dei temi della politica italiana e invece ha strigliato, vi ricordate, l'avevano fatto sentire i Vescovi su denaro e potere, li ha pungolati sui beni economici e sul ruolo nella società italiana, questo identikit del sacerdote ideale, parlando di povertà, di carità, di comprensione, insomma, ha fornito ai vescovi delle indicazioni sempre nella linea del rinnovamento della Chiesa. Però oggi Bagnasco ha parlato così. La recente approvazione della legge sulle unioni civili, ad esempio, sancisce di fatto una equiparazione al matrimonio e alla famiglia, anche se si afferma che sono cose diverse. In realtà, le differenze sono solo dei piccoli espedienti nominalisti o degli artifici giuridici facilmente aggirabili, in attesa del colpo finale, così già si dice pubblicamente, compresa anche la pratica dell'utero in affitto, che sfrutta il corpo femminile profittando di condizioni di povertà. Allora, richiamo in causa il vaticanista del Sole 24 Ore Carlo Marroni, che conoscete da tempo e anche ieri è stato qui e ci aveva raccontato appunto di quello che aveva detto il Papa, del suo significato. Allora ti chiedo, Carlo, oggi, perché se il Papa sta tenendo questa linea di disengagement, come si dice, sta cercando di evitare di parlare rispetto a magari ai papi precedenti di interagire con la politica italiana, con le scelte della politica italiana, come mai oggi Bagnasco torna e poi nella giornata internazionale contro l'omofobia su questo tema? Perché il Papa preferisce lasciare al capo dei Vescovi questo tipo di interventi o per quale motivo? Allora, io dubito che ci sia una regia, diciamo, concordata. Infatti, La Chiesa Cattolica Italiana ha una sua, diciamo così, linea che non sempre, anzi, ultimamente molto poco coincide con quella del Papa. Il Papa ha detto: i rapporti con la politica ve ne dovete occupare voi, però ha detto anche non dovete fare, diciamo, i vescovi pilota, l'aveva chiamati, oppure entrare nelle questioni politiche come accadeva nella precedente, diciamo, presidenza della CEI con il cardinale Ruini, nel tutta la stagione, il ventennio, dove c'è stata la destra che si è alternata al potere, dove c'era un sostanziale, diciamo, rapporto di connubio con la politica, di scambio anche di favori, diciamo. Questo il Papa ha in qualche modo sancito la fine di questo. Tuttavia i vescovi poi alla fine sono autonomi e quindi se decidono di ritornare in ballo sulla politica lo fanno, e poi possiamo dire che non dovrebbero farlo, dovrebbero occuparsi della Chiesa che già ne ha bisogno. Tuttavia Bagnasco, evidentemente c'è anche una questione: quando ci fu il Family Day a gennaio, sì, ci fu una partecipazione abbastanza ampia, non certo 2 milioni come fu detto, una balla clamorosa, erano 300.000 che sono comunque tanti, e fu detto, diciamo, i cattolici tradizionalisti, che poi non solo i cattolici tradizionalisti in piazza, c'erano i leghisti, c'era Casa Pound, c'era di tutto, pensavano che la legge, il DDL Cirinnà, che poi è diventata legge, fosse destinata a cadere con la stepchild adoption, con l'adozione, diciamo, del figlio biologico dell'altro. Sì. Ecco, questo non è avvenuto, la legge è passata e quindi in qualche modo questo blocco ci è rimasto un po', diciamo, con il cerino in mano. La maggioranza, Renzi, ha portato in fondo la legge, giustamente, diciamo, rivendicandone la sua realizzazione, perché ci ha speso la faccia del governo. A questo punto i vescovi hanno ritenuto, il presidente dei vescovi, di rilanciare l'offensiva sui temi, diciamo, cari. Lui parla di utero in affitto, ma probabilmente c'è anche l'adozione, probabilmente non l'ha citato, c'è l'adozione del single, da parte del single, un'altra legge che allineerebbe l'Italia con gli altri paesi. Evidentemente la Chiesa Cattolica Italiana, la base, richiede questa rioffensiva. Non è un caso che anche i vescovi, considerati più progressisti, il giorno in cui il governo mise la fiducia, rilasciarono interviste e dichiarazioni molto molto aggressive su questo argomento. Quindi evidentemente parte della base intermedia c'è una certa, diciamo, voglia di tornare a occuparsi di fatti della politica italiana. Carlo, faccio solo un appunto, nel senso, oggi c'è stato un nuovo femminicidio dopo quello di ieri, sai che in Italia, diciamo, la media è molto alta, si mantiene molto alta. Ecco, mi chiedo perché Bagnasco, per esempio, non intervenga su un tema come questo, dove lì, sulle unioni civili, che uno le approvi o meno, si parla comunque d'amore, in questo caso si parla di tutt'altro, no? Sì, ora, francamente, mettere insieme i due argomenti, diciamo, il Bagnasco nella sua relazione, che è molto lunga, tratta argomenti molto, anche molto seri, anche molto condivisibili, la tragedia delle persone che si rovinano ai giochi, alla ludopatia, parla dei poveri, parla di cose anche molto, diciamo, molto serie, la disoccupazione, la soglia di povertà, il fatto che la Chiesa italiana distribuisce 12 milioni di pasti al giorno gratis ai bisognosi. Queste sono, cose, sì, anche, sono senz'altro tanti argomenti, no? Però su questo, sul fatto che in coppie che dovrebbero, dove ci dovrebbe essere amore e invece ogni due per tre c'è un omicidio, una tragedia, sì, lo so, e questo, guarda, ci sarà una conferenza stampa tra due giorni, glielo chiederemo, mi hai dato una buona idea. Poi ti richiamo subito e mi dici che cosa, e ti diremo che cosa ti ha detto, cosa risposto, benissimo, senz'altro. Grazie Carlo Marroni. Grazie a te Roberto. Ciao Carlo, buon lavoro. Ciao. E adesso direi sì, la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme con le notizie più importanti che vi ricordo tra pochissimo. Intanto stavo guardando i vostri messaggi, qualcosa riesce a arrivare, grazie Mauro che dice sei un babà. E poi invece questo altro messaggio di un ascoltatore, arrivano i WhatsApp e effetto notte ma non arrivano gli SMS, dice il matrimonio gay apre la strada alla stepchild adoption che qui è vietata, vado in un'altra nazione a farla, ecco perché le coppie di fatto va bene ma no al matrimonio, dice questo ascoltatore o ascoltatrice. Il fatto che altre nazioni siano bevute il cervello non significa che facciamo lo stesso anche in Italia. Questo a commentare appunto questo botta e risposta nella giornata internazionale contro l'omofobia tra governo e Bagnasco. Tra poco lo spazio europeo, ma le notizie più importanti sono queste. Oggi l'Unione Europea che ha detto praticamente sì, anche se domani c'è il sì definitivo alla flessibilità per quanto riguarda l'Italia e i conti pubblici, ma dice l'Europa serve poi uno sforzo per il 2017. Bagnasco che attacca, ne abbiamo appena parlato, le unioni civili, il PD dice non sono questa legge, unioni civili contro la famiglia. E poi Strasburgo che accusa l'Italia sull'ILVA, non tutelò la salute degli italiani. E adesso per quanto riguarda lo spazio europeo vi farei sentire questa intervista di Anna Marino a Roberto Gualtieri, presidente della Commissione per i problemi e gli affari economici. Europa 24 notte. Io penso che le proposte del governo italiano verranno accolte, che significa che verrà riconosciuta tutta la flessibilità che l'Italia aveva chiesto per il 2016, stiamo parlando del 0,85% del PIL, quindi stiamo parlando di circa 15 miliardi, una cifra molto rilevante, altrimenti se si sarebbe dovuta essere minori investimenti o maggiori tasse, cioè più tagli o più tasse, e poi si dovrebbe avere, auspico, un riconoscimento della scelta italiana per il 2017 di avere un deficit all'1,8%, mentre invece sarebbe dovuto essere all'1,1%, e quindi stiamo parlando di un altro 0,7% di PIL, cioè più di 11 miliardi, che altrimenti avrebbero dovuto gravare come manovre sugli italiani. Quindi complessivamente è un pacchetto di flessibilità molto rilevante che consente all'Italia di proseguire la sua linea di riduzione del deficit e del debito pubblico, ma di farlo in una maniera più graduale e quindi più attenta alle esigenze della crescita, degli investimenti, del lavoro, della coesione sociale. La Commissione ha un'apertura che è anche a favore della stessa Unione Europea. La flessibilità è parte di una strategia di politica economica europea più adeguata rispetto al contesto macroeconomico. Per quanto riguarda però l'apertura, ci sono delle condizioni che il governo di Roma si dovrebbe impegnare a mantenere, soprattutto riguardo al deficit. Non stiamo parlando di aumentare il deficit, stiamo parlando di ridurre il deficit, perché è giusto naturalmente ridurre il deficit e ridurre il debito pubblico, ma di una riduzione più graduale, più morbida di quella che un'applicazione meccanica delle regole europee avrebbe imposto. Flessibilità e gradualità sono, diciamo, il nuovo corso dell'Europa. Da questo punto di vista, l'apertura è una deviazione dalle regole? Assolutamente no. Il bilancio italiano del 2016 e poi quello che si indica nel DEF del 2017, questi obiettivi che dicevamo, il 2,3 e l'1,8, sono pienamente nelle regole. Se l'Italia ha scelto la strategia della flessibilità, non è una violazione delle regole, ma ne è un'applicazione integrale delle regole, perché queste regole europee contengono anche appunto la flessibilità. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E adesso vediamo, è rimasto pochissimo tempo, vediamo se riusciamo a prendere il nostro Domenico Palmiotti, nostro corrispondente dalla Puglia. Domenico, sull'Ilva. Ciao Domenico. Buonasera Roberta, buonasera. Due notizie importanti, prima udienza oggi e poi la Corte di Strasburgo che attacca l'Italia, no? Sì, la prima udienza, il processo è ripartito dopo l'interruzione forzata di dicembre, ma è stata una ripartenza a metà, nel senso che per un difetto di notifica adesso la prossima udienza è fissata al 14 giugno, quindi fra circa un mese. Quindi è stata una partenza dove di fatto la Corte si è insediata e si è preso atto che ci sono nuove richieste di costituzione parte civile in aggiunta alle circa 1000 già presentate. Ma la notizia più importante, come dicevi tu, viene da Strasburgo, dove la Corte Europea dei Diritti Umani ha accolto l'istanza presentata da 182 cittadini di Taranto che dicono di essere stati gravemente danneggiati nella loro vita e nella loro salute dall'inquinamento prodotto da Ilva, e quindi lo Stato italiano va sotto processo per decisione della Corte di Strasburgo. È indubbiamente un nuovo fronte delicato che si apre nel rapporto fra Italia, Ilva e gli organi europei. Ricordiamo che la Commissione europea ha messo all'indice lo Stato italiano per quanto riguarda le infrazioni ambientali alle regole della concorrenza all'Ilva, quindi un aspetto che riguarda la violazione delle procedure europee. Adesso si apre quest'altro capitolo molto grave, molto delicato. Grazie mille Domenico Palmiotti. Grazie dalla Puglia. Noi ci sentiamo alle 22.